Thank you. rinoceronte. Gigi D'Agostino. Come on.

Dio mio. Di Gigi D'Agostino. What is it? questions living in an elastic band. It grows and contracts here in my hand. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Thank you. una giornata, sai quelle giornate che ti senti qualcosa ma non sai che cosa. Oggi mi sento strano, un po' confuso, tutto sotto sopra. Oggi mi sento strano, un po' confuso, tutto sotto sopra. Oggi mi sento strano, un po' confuso, tutto sotto sopra. Oggi mi sento strano, un po' confuso, tutto sotto sopra, sopra. Oggi mi sento sopra, un po' confuso, tutto sotto strano. Oggi mi sento sopra, un po' confuso, tutto strano. Oggi mi sopraffuso, un po' strano, tutto sotto sento. Oggi mi sopraffuso, un po' strano, tutto sotto sento, sopra. Thank you. Dai, vai avanti. Oh, Radio Italia Network. E Gigi D'Agostino. E Gigi D'Agostino. Son las 5 de la mañana, yo no he dormido nada. mucho me ayudó, eso me trajo una solución. Yo sé que le gustaba y le di una mirada, un par de palabritas, tu número me dio. El celular llamaba y tú no contestaba, luego te puso un viper y no había conexión. Mi única esperanza es que oiga mis palabras, no me enganches por favor. Oggi ci siamo capiti con gli sguardi. È bello poter stare insieme senza dover per forza parlare, senza doversi per forza dire qualcosa. Oggi c'è stata un'intesa perfetta. Ver si me ayudaba, pues ya no tengo amigos por solo hablar de ti. Lo que quiero es hablarte para intentar besarte. No sé si yo no voy a morir. Quizás pienses que soy tonto, vivo mi también loco, pero es que en el amor soy muy original. Me enamoro como otros, conquisto a mi modo. Amar es mi talento, te voy a enamorar. Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto. Del programmino, la marcia sul mondo. Siamo lasciati andare al viaggio, senza parole, solo sguardi. Tanti messaggi anche questa settimana. Ciao Gigi, il mio ragazzo non ti sopporta, ma per me sei meglio di una torta. Vabbè, era Anna da Trapani. Poi un saluto al programmino e al suo grande creatore di note magiche. Un saluto al programmino e al suo grande creatore di note magiche e inventore. Niente, non lo so leggere. Vabbè, insomma, è il messaggio dei ragazzi dell'Università di Bologna. L'Università di Bologna ti ascolta. Ciao, grande. Poi ancora Roberto di Roma. Secondo alcuni testi di aeronautica... Non lo so dire. Secondo alcuni testi di aeronautica, il calabrone non può volare a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Gigi, grazie al tuo programmino sono come quel calabroncino. Vabbè, anche se l'ho letta male, comunque il senso si è capito. ancora messaggi. Se guardo un disco, non lo capisco. Se poi l'ascolto, capisco molto. Quest'armonia mi porta via. Nella mia testa c'è una gran festa. È il programmino di Gigi Larrotino, che non affila il coltello, ma stimola il cervello. By Predrag, si leggerà così. Un saluto a tutto il forum da Predrag. Spero si legga così. Poi un bellissimo messaggio da Valentina di Milano. L'immaginazione permette a una creazione di vivere senza limitazione. Grande Valentina. E il programmino di Gigi D'Agostino continua il suo cammino. Allora, ancora tanti messaggi, non riuscirò a leggerli tutti. Nessun vento è favorevole per chi non sa a quale porto dirigersi. Livio dalla provincia di Bari. Oh, grazie ragazzi, ce n'è un sacco di messaggi, li leggeremo tutti mano a mano nel corso delle puntate. E il programmino non si siede. Forma il triangolo del piede. Musica. Scusate l'interruzione, ma un bel messaggino mi ha fatto scattare la reazione. Sappi che chi non vola materialmente può volare con la mente. È bello, però è anonimo e non è firmato. È il programmino di Gigi D'Agostino. Ma quanto è lungo sto cammino. Aprite le vostre braccia e abbracciate la vita. Alzate le vostre braccia. Toccate la vita. Afferrate le nuvole. Cambiatele la forma. Musica. messaggio un po' così, soggettivo, eh. Allora, niente critiche, solo complimenti per lenire i miei lamenti, turbamenti interiori, in fondo inesistenti. Grazie Gigi, mi dai coraggio per affrontare ogni giorno un mondo freddo come il ghiaccio. Era qui che intendevo soggettivo. Carla da Campobello di Mazara, Trapani. Il mondo non è freddo. Che dire? In quei momenti. Un po' struggenti. Tanti cambiamenti. Tutto ti appare chiaro. E tu ne eri ignaro. In un istante. E tutto meno pesante. Tutto può cambiare. Basta lasciarsi andare. Musica. Amici del triangolo rettangolo aumentano giorno per giorno. Ancora un messaggio: il professore di biologia mi fa venire la nevralgia. Oggi parlava di loop DNA, ma il loop che ci piace di più è quello nel quale ci mandi tu. Con i tuoi suoni affascinanti, molto spesso scatenanti e talvolta rilassanti. Saluti ai raghi regolari del forum e a te grande viaggio dalla Sogliola e le sue sorelle Ale e Annarita. Oh, ragazzi, scusate se ogni tanto sbaglio a leggere, ma è che non sono bravissimo, la punteggiatura non la vedo, non la considero proprio. Quindi perdonate se interpreto male le vostre immaginazioni in SMS. Anche oggi la tappa sta quasi per terminare. Abbiamo ancora un paio di sentieri da percorrere, senza correre, da percorrere, senza correre. Triangolo de piede. Il triangolo de piede. Il programmino non si siede. Forma triangolo de piede. Il numero della messaggeria è 333-6467-662. Leggo ancora un messaggio perché ce ne sono tantissimi. Nadia de Roma dici che la musica è perfezione. Ascoltando la tua ho capito che hai ragione. È magica, mi fa emozionare. Ti spinge ad alzarti e cominciare a danzare. Di lei sarò sempre gelosa, perché solo la musica sarà tua unica sposa. Il programmino di Gigi D'Agostino in discoteca. Questa notte a Klagenfurt in Austria e venerdì 31 ottobre alla discoteca 2 di Cigliano sull'autostrada Torino-Milano, uscita a Cigliano, andiamoci per mano. È una puntata particolare, fatta di sguardi. Solo sguardi, poche parole, quanti silenzi. Nel silenzio del nostro cuore c'è nascosto l'urlo dell'amore. Maso da Varese. Sulle mani. Ciao Gigi, sono secco da Bassano del Grappa, che per trovarlo ci vuole la mappa. Volevo ringraziarti per ciò che fai, spero che non smetterai mai. Ancora un messaggio. Dall'emozione mi fa soffrire. Le sue note mi fanno sognare, il suo canto mi fa innamorare e la melodia mi fa volare. Manca solo una cassa che mi faccia scatenare. È pronta Silence da ballare, Tony Dance. Beh, una versione di Silence da ballare sarebbe questa. E poi... Gigi, la sto aspettando da tempo e ormai non ci sto più dentro. Questa canzone è un'emozione infinita, come la vita. Ma adesso Silence. Questo era un altro messaggio anonimo. Di te nulla sappiamo, ma tutti in fondo ti conosciamo. Qualcosa ci unisce, è la tua musica che stupisce. Siamo tutti a te vicino quando sballi col tuo programmino. Da Giovanni a Gigi D'Agostino. Grazie ragazzi, siete tantissimi. Ci sono una valanga di messaggi da leggere, non posso leggerli tutti. Stay with me forever. I'm rumore del silenzio è sempre più forte. E il programmino in silenzio continua il suo cammino. Ho bisogno di un po' di pace. Metti il disco che tanto mi piace. Silence è quella di cui ho bisogno. La sua melodia è come un sogno. Premi, premi quel bottone. Ti ringrazio e ti do un bacione. Monica da Rovigo. Sulle mani, sulla testa. Teniamoci tutti per mano e stringiamoci forte forte. La musica di Rin continua con Roby 82. Buon ascolto. Rin, se non sei dei nostri, sei uno di loro. Le 16 in punto. Ora, ora, sei uno dei nostri. Rin Weekend, powered by Play Life. Eccoci, ecco.